Saga. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Era una domenica, ricordo, a un certo punto, guardando il cielo, assisto ad uno spettacolo incredibile, comincio a vedere aerei che percorrono in tutte le direzioni l'arco del cielo e rilasciano delle abbondanti scie. Oggi so che esiste il trattamento mentale del progetto MK Ultra e Monarch, gestito attraverso vertici militari deviati e le massonerie, che esiste la tecnica di condizionamento mentale degli illuminati, cosiddetta antica. E ho scoperto un fenomeno che purtroppo era presente già negli Stati Uniti e in Canada e che era stato denunciato da diverse persone a partire già dalla metà degli anni. Io amo ogni mio pregiudizio. Non potrei fare a meno i miei pregiudizi. I miei pregiudizi sono l'alimento della mia curiosità per confermarli o per smentirli. Non voglio prendere in giro chi è convinto e mi scrive da lungo tempo, anche a volte minacciandomi, perché una volta osai dire che secondo me la storia delle scie chimiche era un'enorme, stragrande, madornale cazzata. Non voglio prendere in giro chi ancora pensa che sia possibile fotografare ectoplasmi, che ancora tiene in alcuni scantinati di belle case del centro di Roma macchinette policrome che emanano luce e colori come fossero quei robottini anni 50, applica gli elettrodi con quelli e modifica la mappa vitale di alcune persone che pagano profumatamente. Non voglio prendermela con chi pensa che i cerchi nel grano siano messaggi che ci mandano civiltà aliene. Non voglio nemmeno, perché mi tocca in maniera molto personale, avercela con quelli che pensano che i ragazzi autistici siano una sorta di bambini indaco, quasi messaggeri di civiltà aliene che ci mandano messaggi di pace, o che i vaccini siano fortemente compromissivi dell'equilibrio psichico e probabilmente l'autismo deriva da una somministrazione di vaccini. Non voglio dire tutto questo sia totalmente sbagliato, ognuno pensi quello che vuole, ma che ci sia qualcuno che ogni tanto riponga il limite, cioè tra ciò che è scientificamente provato e tecnicamente, empiricamente dimostrabile, quello che in realtà appartiene al mondo dell'ipotesi, è giusto che ci sia. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, noi diamo una notizia questa mattina, una notizia che è abbastanza nota da chi di queste materie si interessa, e parlo quindi di tutte le segrete congiure legate a piani di conquista del mondo che poi si basano sul nascondere i segreti degli UFO, non dire cosa sono i cerchi nel grano, non spiegare che le scie chimiche fanno parte di uno scellerato rapporto fra gli stati per trasformare gli umani in oggetti di strampalati test chimici. Però voglio dire che in realtà il CICAP, il Centro Italiano Controllo sull'Affermazione del Paranormale, rischia la chiusura. Nel 2014 avrebbe raggiunto i 25 anni di attività, molte volte ne abbiamo parlato, abbiamo confutato tutte le teorie più facili da credere, anche più appassionanti nel credere, ma oggi si è arrivato a questo punto. Di questo parleremo questa mattina, ma prima ancora di entrare nell'argomento vorrei con Stefano Morigi, che è uno storico, un filosofo della scienza, un amico di Melgo, collabora con il programma Esse Domani su Rai 3 tutti i sabati alle 21.05. Perché secondo te la scienza si presta così facilmente nella credulità popolare a essere la pretestuosità per dimostrare ciò che è strampalato? Perché non si ha più confidenza in quello che la scienza mestamente, sommessamente, senza clamore, ogni giorno afferma perlomeno di avere abbastanza approfondito, abbastanza conosciuto? E c'è così tanti esperti, come quelli che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, che si sono costruiti dei sistemi perfetti nella loro mente che dimostrerebbero l'indimostrabile. Sai, la scienza non si presta, la scienza è usata, piegata, diventando qualcos'altro, diventando una narrazione lontana dai fatti e dai controesempi, nella testa e nelle parole di persone che di scientifico non hanno nulla, pur essendo magari suggestive, pur essendo convincenti. Tu giustamente prima dicevi, ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole e ha anche il diritto di pensare o di credere in cose false, che i bambini li porta la cicogna, che ha visto un UFO nel cielo. Se no creiamo un nuovo tribunale dell'Inquisizione. Per carità, ognuno è libero di pensare quel che vuole, ma non è detto che tutto ciò che pensa abbia una credibilità o un'attendibilità scientifica. C'è una bella differenza. Allora qual è l'atteggiamento giusto nei confronti? di questi tre fenomeni. A me non piace essere quello che punta il dito contro i creduloni, dico credete nelle fantasie, mi fa ridere, nemmeno mi piace però essere quello che si comporta come tanti programmi pseudoscientifici che mette insieme dei minestroni terrificanti, fa grandi piramidi, cavalieri templari, scie chimiche, UFO e via dicendo. Ma appunto bisogna distinguere, la libertà di pensiero come dire, contempla anche la creduluneria, chiamiamola così. Poi però quando si fa scienza non si scherza e si ha tutto il diritto, io direi il dovere civico, di dire che certe cose non stanno né in cielo né in terra, letteralmente, e che sono teorie pseudoscientifiche o addirittura prodotte da cialtroni che con le istituzioni scientifiche non hanno niente a che fare. È un dovere civico, non solo un rigore scientifico, quello di riportare la scienza ad essere un bene pubblico e anche uno stile di pensiero che dovrebbe riguardare non solo chi lo fa di mestiere, ma tutti i cittadini che ambiscono avere una capacità critica rispetto alle cose del mondo. Stabiliamo subito allora qual è la differenza. Quando una scoperta, un fenomeno, qualcosa di cui si parla, può essere a tutti gli effetti supportato da credibilità scientifica e quando in realtà non ha nulla a che fare con la scienza. Qual è la lieve differenza? Proprio per farlo capire in termini comprensivi. Beh, anzitutto ci devono essere dei fatti. Poi, sai, il sapere scientifico, diciamolo chiaramente, ha tre caratteristiche. Non è una religione la scienza. Non è una religione. Nasce con tre caratteristiche. È un sapere pubblico, è un sapere rivedibile, è un sapere controllabile. Le tre cose insieme. È pubblico in quanto rivedibile ed è rivedibile in quanto controllabile. Solitamente queste altre teorie non hanno nessuna di queste tre caratteristiche. È un sapere, diciamo così, iniziatico, assoluto, e difficilmente c'è qualche evidenza che lo possa mettere in dubbio. Basterebbe cominciare a tenere presente queste tre caratteristiche per distinguere quello che è scientifico da quello che non lo è. 800240024. In cosa credete voi rispetto agli argomenti che abbiamo accennato? Voi pensate che sia giusto che esista un'istituzione, un ente e delle persone con solidi argomenti che contrastino la grande marea fantastica delle fantateorie pseudoscientifiche? Il Canada si è distinto nel mondo per aver notato e protestato le scie chimiche sin quando furono osservate per la prima volta in questo paese nell'inverno del 98. Nel marzo del 99, in una piccola città chiamata Hispaniola, ad ovest della città di Southbury, nell'Ontario, i cittadini iniziarono a notare grandi aerei volare avanti e indietro sopra la loro piccola comunità, rilasciando qualcosa che, invece di dissiparsi nel giro di poco come una normale scia di condensazione, rimaneva per ore, scendendo lentamente sulla città, rendendo le persone molto malate. Nel gennaio del 99 avevo presentato i miei studi all'Environment News Service e l'International... Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno. Segretario nazionale del CICAP. D'ora in poi saremo noi tutti vittime delle scie chimiche se voi vi chiudono bottega. E questo è uno dei rischi, purtroppo, nel senso che noi appunto da quasi 25 anni ci diamo da fare per intervenire in qualche modo, smentire quando ci troviamo di fronte a notizie false e mettere in guardia contro eventuali bufale, insomma, no, il pubblico. Ma come si diceva prima, appunto, come diceva Stefano Morigi, noi non intendiamo assolutamente, non l'abbiamo mai inteso tacciare di falsità le credenze delle persone. Ognuno è libero di credere a quello che vuole, cosa diversa è imporre che gli altri accettino queste credenze semplicemente sulla... Allora facciamo proprio un esempio metodologico, prendiamo l'argomento che abbiamo toccato, come molti potranno chiamarci visto che l'argomento è caro a tanti ascoltatori, quello delle scie chimiche. Le scie chimiche in realtà ultimamente, proprio che siamo sotto campagna elettorale e stanno uscendo in internet, lo dico al di fuori di ogni mio desiderio di influenzare il voto di chiunque, anche perché chi sto per nominare già si fa male abbastanza con le sue mani. Diciamo, esiste un patto segreto fra Bush e Berlusconi, fatto in passato, non so da chi altro, per cui è stato dato il permesso di mandare le scie chimiche anche sull'Italia. Ma cosa servirebbero le scie chimiche dal punto di vista, diciamo, delle persone che ne sostengono la teoria? Ma c'è appunto chi sostiene che si tratterebbe di una sorta di avvelenamento di massa della popolazione, no? Altri invece sostengono che servirebbe per coprire il sole, per contrastare il riscaldamento globale o per generarlo, al contrario, diffondere batteri e virus. Per usarci come cavie, per sperimentare. Per usarci come cave, per contribuire a vendere più vaccini, generare siccità a comando, insomma una serie di catastrofi che non si capisce perché qualcuno dovrebbe venire in mente di mettere in atto. Ecco, però mi sembra che la nota comune dietro a tante di queste credenze sia che esista un grande patto mondiale, internazionale, cosmico, non so se poi c'entrano anche gli UFO, a cui apparterebbero grandi potenti, che in realtà in certe fattispecie può esserci delle alleanze transnazionali, figuriamoci che se voglio negare questo, ma che questi grandi saggi, questi illuminati, questi figli della grande piramide, non so bene, sarebbero tutti d'accordo nel complottare contro l'umanità. E guarda caso ci sono poche persone che hanno un loro blog, un sito internet, un libro pubblicato in una di quelle case editrici da stazione, che sanno improvvisamente tutto il segreto e lo rivelano profeti inascoltati alle popolazioni che in realtà non vogliono ascoltarle. Esiste questa traccia comune del grande complotto dietro le teorie pseudoscientifiche? Ma è chiaramente una caratteristica proprio comune di tante teorie cospirazioniste, quella che vede un governo globale occulto e nascosto di potenti che tramano nell'ombra per rovinare il pianeta, per distruggere tutto quanto, per comandarlo. È indubbio che ci siano stati complotti e cospirazioni politiche in varie parti del mondo per estromettere qualche governante per inserirne qualcun altro, ma figuriamoci, certo. Cosa diversa invece è immaginare che ci sia questo segreto che esiste e che solo pochi eletti, che poi appunto sono sempre qualche ragazzo, qualche appassionato di queste cose, qualche suggestionato da queste cose, che apre un blog, che scrive un libretto e che invece ha scoperto, a differenza del resto del mondo che non se ne è accorto. Balbec che cos'è? Il Cica spieghi Balbec, non so, mi è arrivato un SMS. Ne sai qualcosa? È la prima volta che sento parlare. Beh, se l'ascoltatore mi ha detto che vuole spiegazioni su Baalbek, me lo dica, così avremo elementi. Claudio, buongiorno. Buongiorno, cerchiamo di essere brevissimi. Nessun organismo di controllo può risolvere il problema. L'unica soluzione al problema è la cultura di chi ci crede o chi non ci crede. L'educazione, la scuola. Mi spiego altrimenti, se tu vai a guardare chi ci crede alle bufale, per lo più è triste dirlo, ma sono persone ignoranti. E secondo me l'educazione ti impara... Posso correggerla, Claudio? Sì, a volte è vero, ma non sempre. A volte sono persone che passano momenti molto particolari della loro vita, sono particolarmente indifesi, fragili, e in quel momento diventano molto ricettivi. Lo so perché recentemente, riguardo alle macchinette policrome che cambiano la cifra dell'esistenza, ho avuto la testimonianza di un'amica, dice: guarda, io quel periodo ero veramente giù, trovo queste persone che mi aiutano, mi attaccano gli elettrodi, dicono che così sto bene, e mi sono lasciata andare e gli ho mollato qualcosa come 100.000 euro nel giro di qualche anno. Ecco, questo magari può accadere. Piccato in castagna, perché le devo dare ragione. Cioè la persona in momenti di debolezza, giustamente, ha bisogno di essere difesa, però appunto ha tanta cautela, perché la vera difesa, secondo me, rimane la cultura e l'educazione della persona, a renderla in grado. Allora, faccio una domanda a lei, la uso come esperto. Qualcuno mi sta scrivendo via SMS, dovrebbe cominciare il servizio pubblico a non pagare più trasmissioni in cui danno l'oroscopo, perché già quello è dare una sorta di credibilità a qualcosa che appartiene al mondo irrazionale, divertente, simpatico, senz'altro, ma e tanti altri programmi in realtà pseudoscientifici dove si parla di grandi piramidi, di illuminati e di Santo Graal. Non starà al direttore del programma essere abbastanza colto e civile da non dare spazio a questo, forse sì. Claudio, grazie. Domenico. Buongiorno. Io volevo fare un'osservazione proprio riguardo al discorso delle teorie pseudoscientifiche, ponendo l'accento sul contrario, cioè sul fatto che ce ne sono alcune scientifiche accreditate, attuali, che forse sono addirittura più assurde e più inimmaginabili rispetto a quelle pseudoscientifiche, come ad esempio la teoria M, che sarebbe l'evoluzione della teoria delle stringhe, dove si prevedono mondi paralleli e in ogni mondo c'è una copia di noi stessi. C'è un qualcosa di veramente assurdo, secondo me. assurdo, diciamo, è per le nostre conoscenze può sembrare tale. C'è un pezzo fantastico di uno dei più illuminati osservatori della nostra contemporaneità, che è Padre Pizzarro, dove che parla appunto di queste stringhe. Se poi la ritroviamo ve la faccio sentire in apertura della seconda parte. Stefano Moringi. Il problema non è l'assurdità o la controintuitività di una teoria. È vero quello che dice l'ascoltatore, la teoria cosiddetta M, o quella degli universi paralleli o dei molti mondi, tanto per far capire un po' di che cosa si tratta, è molto controintuitiva, ma questo non significa che non possa essere scientifica, e lo è. E da cosa è scientifica? Dal fatto che esibisce prove che si presenta peraltro essa stessa come fallibile. Nessuna teoria scientifica ha l'ardire di potersi porre come dogmatica e indubitabile. A fronte di qualche controevidenza, anche i sostenitori di queste teorie dovrebbero prendere atto, qualora questo accadesse, che questa teoria va rivista o addirittura buttata via. Nessuno dei sostenitori della teoria pseudoscientifica, a fronte di qualsiasi controesempio, sarebbe disposto ad ammettere questo, perché ci sarebbe comunque un altro perché ci sarebbe un'altra ragione nascosta, che rimarrebbe comunque sempre nascosta, a sostegno di questa teoria. Allora, forse dobbiamo far capire meglio, Stefano Moringi, che in realtà non è che non è scientifico ciò che sembra assurdo, surreale, no, impossibile. Assolutamente. La scienza all'epoca, non è... all'epoca in cui Copernico ha cominciato a dire guardate che la fabbrica dei cieli funziona in un altro modo, sembrava molto controintuitivo, addirittura impensato e impossibile. Eppure le cose stavano così, perché sono state portate delle prove. Se non fossero arrivate quelle prove, quella teoria non sarebbe mai stata corroborata, come si dice. Il problema è che nessuna teoria pseudoscientifica è corroborata dai fatti, ma soprattutto falsificabile dai fatti. Questa è la vera differenza. Nel sud dell'Inghilterra, da alcuni decenni, si manifesta un incredibile fenomeno, affascinante e sconcertante allo stesso tempo. I cerchi nel grano. Ma negli ultimi anni il mistero si è infittito. Sui campi di grano hanno cominciato a comparire inquietanti figure maghe. Chi o che cosa potrebbe disegnare questi pittogrammi con riferimenti che mettono insieme passato, presente e futuro? Il messaggio trasmesso da queste affascinanti figure potrebbe avere un grande valore per l'umanità. E se si trattasse di un nuovo tentativo di comunicazione? Massimo Polidoro, quanto vi hanno dato da fare i cerchi nel grano? Tantissimo, i cerchi nel grano sono un classico ormai da una ventina d'anni. È vent'anni che se ne parla. Infatti, abbiamo di recente proprio concluso un esperimento di psicologia sociale, possiamo chiamarlo, in cui abbiamo realizzato qualche tempo fa un cerchio veramente complesso e molto grande a Poerino, vicino a Torino, e per anni sono andati avanti gli esperti di cerchi a parlarne come di qualcosa di impossibile da capire. E come l'avete fatto il cerchio del grano, Polidoro? Ma i cerchi si fanno con pazienza, nel senso che servono strumenti molto semplici, che sono un asse di legno e qualche corda. E un cordino. E poi, esatto, disegnandolo in anticipo. E poi andando sul campo con 3-4 persone, un paio d'ore si realizzano questi disegni. Il fatto è che la cosa interessante per noi era vedere come la gente cominciava a costruirci teorie sempre più complesse, sempre più articolate, a partire da magari particolari dettagli, errori anche fatti nella costruzione del cerchio, finché l'abbiamo rivelato, ovviamente. A quel punto gli esperti sono scomparsi. Invece i teorici del cerchio del grano cosa sostengono? Che siano dei segnali, delle mappe aliene per segnare il territorio? Questo era un po' il significato del film che aveva fatto Shyamalan, la Science, però sono diverse le interpretazioni. All'inizio erano semplici cerchi, allora si diceva magari è il disco volante che atterra, poi hanno cominciato a essere più disegni. Complessi, esatto, sono diventati dei messaggi. Chi li fa questi messaggi? Possono essere extraterrestri, possono essere entità di chissà quale tipo, magari addirittura c'è chi parla di spiriti della Terra, che vogliono lasciare messaggi all'umanità, le solite o da sopra o da sotto c'è sempre qualcosa di invisibile che segna i nostri campi di grano, chissà perché proprio nel grano, quando potrebbe prendere la vernice e farli su una piazza, su un piazzale, sui tetti delle case, no, invece non perdere tutto tempo a abbassare il grano. Matteo, velocemente. Sì, buongiorno. Io ho ascoltato le prime parole che ha detto il suo ospite, Stefano Moringi. Sì, esatto. E lui ha definito, diciamo, le verità della scienza per essere tali con la parola deve essere pubblica. Allora, io mi stavo chiedendo una cosa, perché ascoltando le trasmissioni, leggendo qua e là, Uno degli argomenti che veniva sollevato, mi piacerebbe sentire lei e il suo ospite su questo argomento, è sul, diciamo, il livello di verità che può essere somministrato al mondo, perché ci sono probabilmente delle verità, e questo vale anche un po' per la religione, no? Potrebbe essere un punto di contatto tra la scienza e la religione. Cioè delle cose che la scienza non può dire, sennò si allarmerebbe l'umanità. Melog, la realtà condivisa. Scusi, ma allora qual è la verità? Ma come qual è la verità? Ma che pensi, che noi non li leggiamo i giornali? Ma che veniamo giù dalla montagna del sapone? Ma che non lo sappiamo noi l'universo vero com'è fatto? La teoria attuale, che poi è una rielaborazione della teoria delle stringhe, si chiama M-Theory e dice che ci stanno 11 dimensioni e infiniti universi paralleli. Ah, e lei crede a questo? Io credo, no, questa realtà, non è che ci credo io. Ci stanno le equazioni, andate a leggere. Ma lo sai che se viaggi in un certo modo attorno a un buco nero rotante supermassivo può andare avanti e indietro nel tempo a piacere? Ma di che stiamo a parlare qua? Ma quindi, scusi, non ho capito, infiniti universi paralleli, ma quindi lei è per la scienza? Ma Dio c'è o non c'è? Non capisco. Infiniti universi paralleli, pupè! Dio può esistere, non esiste, starcene 4, 16, tuneti, 3 giapponesi, che ha barba e senza barba, è tutto superato, che la palla di vetro ci indovini di più. C'è da dire che Corrado Guzzanti, per questo suo padre Pizzaro, fu anche denunciato, poi la denuncia è stata ritirata per vilipendio alla religione, ma chi crede, chi ha fede, non è che si lascia intimorire o si scandalizza per padre Pizzaro, che padre Pizzaro è un singolare sacerdote che in realtà vivacchia alla luce di tutte le credenze e del contrario di tutte le credenze. E qui sta esponendo qualcosa che in realtà ha una sua base scientifica, Stefano Morigli. Sì, infatti singolari mi sembrano gli altri sacerdoti più che padre Pizzarro, a dire il vero, che sostengono ancora. Vabbè, però ognuno, come si diceva, è libero di sostenere quello che vuole. Però la cosa interessante, non voglio sfuggire alla domanda. La domanda l'ho fatto prima. Ecco, quale segreto la scienza potrebbe non rivelare, potrebbe essere pericoloso rivelare? È una falsa domanda in qualche senso. La scienza ha già mostrato l'attendibilità di alcune teorie con cui ancora adesso c'è gente, tra cui l'istituzione di cui si parlava poco fa, fa fatica a fare i conti. 1859, un signore che si chiama Charles Darwin ha spiegato quali sono le dinamiche dell'evoluzione delle specie, origine delle specie, 1859, e spiega, così come poi la scienza ha continuato con piccole correzioni a confermare, che noi siamo qui sostanzialmente per caso, d'accordo? Questa idea non è ancora accettata, questa idea che noi siamo il prodotto di un caso che guida l'evoluzione non riesce ancora a essere accettata da gente che cerca significati reconditi o disegni intelligenti, diciamo intelligenti per modo di dire, all'evoluzione della natura. Quindi la scienza le cose le dice, come dicevo prima, è pubblica, è rivedibile, è controllabile. Se quella teoria fosse stata una panzana, sarebbe già stata smentita. Continua a reggere e reggere perché c'è qualcuno che prova a mettere in discussione quotidianamente. Adesso vorrei dire una cosa, poi dopo riprendiamo il discorso col Cica, mi è venuto mentre parlavi te, non era pertinente alla trasmissione. Il problema viene quello, la scienza potrebbe arrivare a negare Dio, e questo è il problema. Ma chi Dio lo ha come sua esperienza personale, interiore, profonda, di fede, di esperienza quotidiana, perché dovrebbe sentirsi messo in precario dubbio o farsi venire problemi per la scienza? Guarda, ti faccio... come dice padre Pizzarro che esistono universi paralleli. Ma non ti faccio il caso di padre Pizzarro, ti faccio un caso storico. C'è un monsignore di Santa Romana Chiesa, ormai in pensione, che si chiama padre George Coyne, che è un astrofisico. Lui non ha mai avuto problemi a confrontarsi, anzi sostiene l'evoluzione dell'universo e la teoria di Darwin. Un bel giorno io gli ho chiesto, ma scusi padre Coyne, ma come concilia lei l'attendibilità di questa teoria scientifica che mette in seria discussione la verità delle scritture col suo essere un sacerdote e col suo fatto che lei crede in Dio? Risposta: la verità sul mondo me la dà la scienza, per me Dio è amore. Ma trovo che sia perfetto, esattamente detto in una sintesi, quello voglio dire io. Un credente non può sentirsi messo in dubbio semplicemente perché qualcuno lavora su un piano scientifico, Massimo Polidoro, ritorniamo al problema del CICAP. Mi chiedono molti, ma il CICAP su cosa si finanziava? Perché deve chiudere? Chi è che lo sosteneva e non lo sostiene più? Ecco, allora, infatti, c'è spesso molti pensano che il CICAP sia quasi una costola, chissà, del CNR o di ricevere finanziamenti dallo Stato. No, niente di tutto questo. Il CICAP esiste solamente grazie ai suoi soci, cioè alle persone che aderiscono al CICAP perché ne condividono le finalità e gli scopi, quindi aderiscono, diventano soci, ricevono poi le riviste, ricevono le nostre pubblicazioni, ed è questo che fa mandare avanti tutto il nostro lavoro, cioè il controllo delle notizie, cioè gli esperimenti, le verifiche e tutto quello che facciamo ormai da 24 anni. Quindi non è tanto che è venuto a mancare, diciamo, un sostegno istituzionale, quanto piuttosto il fatto che un po' per la crisi, un po' perché... Chiaro, sentite forse... anche voi la crisi. Penso che sia anche questo, nel senso che quando uno deve tagliare qualcosa, magari dice, vabbè, quest'anno lasciamo perdere. Non sostengo più il CICAP. Esatto, il tempo passa. E però ecco, noi proprio viviamo solamente grazie ai soci. Quando il numero cala un po' troppo, ecco che a questo punto non era mai successo prima, ma evidentemente quest'anno è stato proprio un momento difficile per... Non è poi dopo che in un momento particolare di crisi, come avviene per le grandi pestilenze, per le grandi guerre, la gente vuole riattaccarsi all'improbabile, all'irrazionale, e quindi non vuole che qualcuno gli sveli gli aspetti invece credibili e li stingua da quelli incredibili. Perché molti mi stanno scrivendo, tipo, adesso ho perso il messaggio, ma nel genere siete ciechi, degli zombie, non volete vedere oltre il velo della vostra credulità, non sapete che mondi nascosti ci stanno. Sì, è vero assolutamente che di fronte a periodi di crisi ci si rifugia nel magico e nell'irrazionale, perché sembra dare soluzioni e risposte facili a domande e a problemi che facili non sono per niente, insomma. E forse è proprio per questo che in questi momenti c'è ancora più bisogno di un'associazione come il CICAP, che invece mette in guardia contro soluzioni improbabili, se non addirittura pericolose. Che poi i nostri soci non rinnovino per questo motivo, perché preferiscono anche loro rifugiarsi nel razionale, magari penso che non sia così. Io vorrei chiarire con Morigi velocemente solo un'altra cosa. Mi scrive adesso un SMS tutto in maiuscolo, quindi sta urlando. Mi scusi signor Morigi, ma chi è lei per imporre cosa credere o cosa non credere? Ma se voglio credere che Gianluca sia un ologramma oppure che Dio è nero, non sono affari miei? Sì, assolutamente sì, io non voglio porre... È la manipolazione di massa che vogliamo evitare. I limiti della credenza sono sconfinati, ci mancherebbe altro, ma l'attendibilità di una credenza invece no. Questa è la differenza. Uno può credere quello che vuole, spacciare la sua credenza come scientificamente attendibile è un altro paio di maniche. Faccio un esempio. Un grande filosofo inglese diceva: perché noi riconosciamo attendibilità alla teoria di Newton? Non perché ci abbiamo creduto ciecamente, dogmaticamente, ma perché abbiamo fatto di tutto per metterla in discussione e per falsificarla, eppure ha resistito al confronto coi fatti. Questa è la differenza. La credenza cieca, immotivata, legittima, rispetto a un'attendibilità che invece si basa sul confronto con i fatti e con l'esperienza. Marco, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo fare una domanda al vostro ospite, se avevate qualche notizia in più. Nel 74 fu mandato un messaggio in codice binario ASCII verso un gruppo di stelle che si chiamano M13, se mi ricordo bene. Lì praticamente abbiamo mandato degli elementi su come un po' è composta la Terra, su come è il DNA dell'uomo, su alcune cose, in modo che... Se qualcuno la sintesi detto, della nostra civiltà, l'uomo, sì, la donna, la nostra civiltà, un po' quello che è dove la nostra posizione della Terra e tutto, la molecola dell'idrogeno, mi ricordo, sì, ero bambino. È tutto. Nel 2001 appare un cerchio nel grano in codice, sembra un po' la risposta, diciamo, se avete presente come è fatto, come viene composta questa cosa qua, potete cercarla poi su internet. Cioè, diciamo, gli alieni hanno risposto con un cerchio. No, gli alieni, non so io chi possa aver risposto, però c'è questa cerchio nel grano che appare, che sembra proprio la risposta a quello che abbiamo mandato noi, e volevo sapere se avevate delle notizie in più, ecco. Massimo Polidoro, ne sai niente di questo cerchio nel grano di risposta? Assolutamente sì, è un disegno comparso a Chip Bolton e noi ce ne siamo occupati, e sul nostro sito www.cica.org, se inserite M13 oppure Chip Bolton, trovate tutta la spiegazione di a proposito di questa presunta risposta al messaggio. Quindi se va sul sito del CICAP trova tutta la documentazione sulla risposta nel cerchio del grano. Giancarlo. Buongiorno, sono in linea? Certo, la sto ascoltando. Io mi auguro veramente che il CICAP possa non chiudere, perché è veramente andrebbe insegnato a scuola quello che loro predicano. E il mio intervento voleva più che altro dire questo, che la creduloneria, quindi tutti questi fenomeni che a questa si possono ricondurre, cioè non si può fare un discorso e dire ognuno a casa sua faccia quello che crede, perché non è proprio così. Fanno queste menti credulone, queste organizzazioni che si fondano su queste, diciamo così, tra virgolette, passioni o non passatempi, non so come definirli, creano un sacco di danni a tutta la società, ma enormi, incutono delle paure infondate. Ma molte volte sono organizzazioni a delinquere che su questo speculano, organizzano gruppi di studio, organizzano particolari centri di recupero, sulla paura si gioca moltissimo, sulla paura altrui. Va bene, questo è molto chiaro. Andrea invece. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, io volevo far notare questo piccolo punto, cioè non esiste in realtà una differenza così chiara tra scienza e pseudoscienza da parte della categoria dei suoi sostenitori, nel senso che esistono anche scienziati che stanno su cattedre di università italiane e straniere che sostengono ogni tanto argomenti che rientrano in questo ambito delle pseudoscienze. Io mi occupo, non sono uno scienziato, mi occupo di reliquie, so che ci sono scienziati, professori universitari che studiano ad esempio quale potenza di fulmini serve per imprimere un'immagine sulla sindone. Ognuno può passare il suo tempo con meglio ho credo. Capito, ma queste sono ricerche pubblicamente finanziate, e sul pubblico secondo me questo ha una ricaduta negativa, perché dal momento in cui si mette il nome di una persona che sta all'interno di una istituzione pubblica come l'università, allora la persona, diciamo, comune, non istruita in questo ambito non sa più a chi deve credere. Ora allora, guardi, ci fermiamo un secondo, devo dare la linea alle informazioni del traffico. È molto interessante, lei pensi che Morigi abbiamo scritto un libro dove si parla molto di reliquie. Ritorno al discorso di prima e poi l'approfondiamo dopo. La reliquia come oggetto di culto e di fede, ma può essere anche appartenere ad epoche recenti. La persona che ha fede darà sempre un valore a quella reliquia. È chiaro che se vuole scientificamente provare la forza del sacro e dell'assoluto che passa attraverso il corpo di un santo che ha perseguito grazie alle sue virtù eroiche questa trasformazione anche nella sua carne, la scienza di fronte a questo può provarci, non so come può arrivarci. Melog, la realtà condivisa. La loro presenza è avvertita in ogni angolo del pianeta. Oltre 130 segnalazioni nell'ultimo anno solo in Italia, 30 a Roma, 25 a Torino, 15 a Napoli. Solo suggestioni o tutte invenzioni? Oltre 1000 foto scattate da esperti e dilettanti. Vedremo immagini scattate nel corso di esperimenti e fotografie nelle quali ci sono cose che non ci dovrebbero essere. Massimo Polidoro, io ho visto giorni fa anche alla RAI il solito programma, si va nella casa buia, ci sono degli scienziati con delle macchine rivelatrici, si sale per le stanze, improvvisamente vanno fuori scala degli indicatori di fantasmi e si dice che lì c'erano dei fantasmi. Ora non voglio mettere in crisi, io stesso posso credere ai fantasmi, io credo anche agli gnomi, alle fate, a Babbo Natale, alla Befana, ma quelli sono problemi miei. Dico, ma è possibile e plausibile continuare a far passare, non dovrebbe esserci una striscia sotto che dice questo programma è una cazzata, però guardatelo perché è divertente. È quello che chiediamo noi non è che vogliamo chiudere i programmi, per carità. A me diverte guardarli, però esatto, c'è qualcuno che pensa magari si compra la macchinetta per vedere la nonna schiattata. Perché no? Ma l'importante è capire che è una finzione, che è un intrattenimento, che non è scienza, che non è divulgazione, stiamo raccontando delle fantasie per avere un po' di ascolto. Una volta capito questo si può guardare di tutto, il problema è che pochissimi di quelli che guardano la televisione si rendono conto di questa differenza. Molti mi chiedono cosa possono fare perché non muoia il CICAP. Aderire, diventate soci, venite sul nostro sito www.cicap.org e aderite. Può aderire lo studente con 15 euro, chi si può permettere qualcosa di più, ovviamente ci sono tante possibilità. Quindi, se ma in 25 anni cosa avete fatto voi, Polidoro? Come? In 25 anni cosa avete capito, diciamo, di questo mondo della credulità? Abbiamo visto che diciamo, il paranormale e il mistero sono qualcosa che affascina sempre l'uomo e ovviamente si trasforma questo mondo magico col passare del tempo e con le mode. Quindi man mano che noi in realtà capiamo, comprendiamo, indaghiamo e sveliamo un mistero, poi ne spuntano sempre di nuovi. Però abbiamo anche visto che con il nostro lavoro tante cose sono in qualche modo sparite, no? Non vediamo più i magoni alla Otelma o i piegatori di cucchiai presi sul serio da laboratori scientifici o investimenti universitari per studiare l'acqua con la memoria. Beh, oddio, però di programmini sulle piramidi, sui fantasmi, no? Sul sacco Graal, no? Se ne vedono comunque anche in Rai. Se ne vedono tantissimi, infatti su quelli continuiamo a lavorare, però non sono più, ecco, la notizia da telegiornale. Ma no? Io direi, se fosse possibile dire, ci piace perché è un filone anche appassionante, mi piacciono i telefilm del mistero. Può scriverci sotto, non è scienza. Stefano Morigi, no, prima... Soprattutto c'è un altro dettaglio importante a mio modo di vedere, al di là di scrivere sotto che non è scienza, quello sarebbe utile che questi programmi non pesassero nel bilancio di una televisione, di una radio, insomma di un'industria, visto che c'è carenza di fondi, non pesassero sulla voce divulgazione scientifica, ma pesassero sulla voce fantasy, per esempio, e andrebbe benissimo. Siccome i soldi sono pochi e la divulgazione scientifica è difficile e anche costa, sarebbe bene che queste interessantissime, si fa per dire, trasmissioni fossero rubricate alla voce fantasy e non alla voce divulgazione o comunicazione scientifica. Basterebbe questo. Senti, la domanda dell'ascoltatore che aveva fatto prima, te la lego a un'altra domanda, ma non dovrebbe essere la stessa comunità scientifica ad essere un CICAP, cioè a dire dove inizia e dove finisce il limite dello scientificamente verificabile? Ma lo è di già, di fatto. Il problema è un altro, è quello di portare la scienza a essere, come dicevo prima, un bene pubblico, una conoscenza critica, per quanto fallibile, a disposizione della società. E la società dovrebbe imparare, al di là delle informazioni che la scienza di volta in volta propone, dovrebbe assimilare quella mentalità critica che è propria della scienza, senza della quale è difficile essere cittadini, perché si diventa inevitabilmente, inconsapevolmente sudditi di qualsiasi cialtroneria viene proposta con tutta la suggestione del caso. Tu prima mi hai fatto una domanda, falla direttamente a Polidoro. Sì, volevo chiedere a Massimo, che saluto peraltro, non è possibile, questo lo dico perché non lo so e lo chiedo, che anche il CICAP finisca, per esempio, tra quei centri di ricerca che possono usufruire del 5 per 1000? Beh, guarda Stefano, in effetti il CICAP è riuscito a entrare in questo gruppo di associazioni dal 2010. Il problema è che fino al 2014, al dicembre 2014, non sapremo e non riceveremo questi eventuali finanziamenti di 4 anni fa. Quindi ci abbiamo ancora un paio d'anni. Dovreste tirare la cinghia per un paio d'anni, poi ce la fate. Questo è. Però ecco, al di là di questo, che non abbiamo nemmeno idea di che tipo di finanziamenti riceveremo, noi speriamo che chi pensa che il lavoro di CICAP sia valido poi metta anche la firma sul 5 per 1000 per noi, ma al di là di questo, avere alle spalle un gruppo consistente, nutrito di soci che ci sostiene è importante. Certo. Sentiamo Carmen, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando? Certo, sì. La sto ascoltando. Allora, cercherò di essere velocissima. Dunque, io ho mia madre, che è una scienziata, che mi ha spiegato la teoria delle stringhe. Seconda cosa, velocissima, quando io e mia madre non riusciamo a capire qualcosa, tiriamo fuori, persino lei tira fuori, una famosa frase dell'Amleto di Shakespeare, in cui Amleto dice al suo amico Orazio: ci sono più cose in cielo e in terra di quanto ne comprenda la tua filosofia, Orazio. Per le cose inspiegabili. Terzo, mia madre sostiene, le dico che è un'astrofisica, mia madre sostiene che è matematicamente impossibile che esistiamo solo noi come esseri pensanti. Vabbè, adesso, sì, questo. ammette, ma nessuno nega che possano esistere UFO, extraterrestri, ectoplasmi e via dicendo. Non è questo esattamente il fatto. Non si può fare un meccanismo di divulgazione che dia per scontato questo, perché non esiste una prova concreta, reale, empiricamente accertabile della loro esistenza. Poi siamo aperti a tutte le possibilità, ma le ripeto, credo ai fate, all'ignoma, Babbo Natale, alla Befana. Nessuno potrà negarmi che queste cose esistano, ma oggi con grande tranquillità faccio questa trasmissione. Mauro. Sì, pronto. No, io volevo dire due cose sostanzialmente. La prima è questa. La sigla, dica una velocissimo. Sì, che sostanzialmente fra scienza e non scienza oramai, diciamo, l'epistemologia ci insegna che troppe differenze nel senso della falsificabilità non esistono. Nel senso vabbè, che... guardi, dobbiamo tagliarla, purtroppo l'ha presa troppo lenta, troppo lontana. Non era niente di molto importante. Grazie a tutti.